edizione. L'informazione del mattino. 6:14, buona giornata, buon mercoledì da Anna Migliorati. Chi era già sintonizzato l'avrà sentito, è una settimana nera per i problemi tecnici a Radio 24, ma non vi preoccupare, recupereremo sicuramente nella giornata. Nel frattempo però siamo qui e allora prima edizione la cominciamo questa mattina subito con uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani che puntano tutte sulla politica. Crisi, Monti accusi i governi passati, scrive la Repubblica, partiti in crisi, gelo sul governo, il Corriere della Sera. Crisi l'attacco di Monti, così la Stampa di Torino, il Messaggero, crisi l'affondo di Monti. Ieri ha parlato il Presidente del Consiglio, ci sono state le reazioni dei partiti, c'è stata soprattutto la reazione del PDL e allora tra pochissimo vedremo di ripartire proprio da qui, subito dopo invece la viabilità. Prima edizione. Eccoci qui, allora visto che la carrellata dei titoli di apertura dei quotidiani l'abbiamo già fatta, andiamo un po' più nello specifico. La Repubblica, hanno causato tragedie umane, così l'accusa ai governi passati, arrivata ieri dal Premier Monti, ed esplode l'ira del PDL. La Terza Repubblica non sa dove andare, scrive Ilvio Diamanti nel frattempo, che fa il conti pratici dopo il voto in queste amministrative. Allora, 95 sindaci uscenti, confermati al primo turno 5 per il centrodestra, 45 persi, 45 al ballottaggio, 53 confermati al primo turno per il centrosinistra, 6 persi, 33 al ballottaggio, ed è da questi numeri che al di là di tutto ora si dovrà ripartire. E allora, i due temi che si intrecciano sul Corriere della Sera, che sceglie proprio di aprire con il contrasto tra i partiti e il capo dello Stato, Berlusconi che dice al PDL non più sdraiati sul Premier e il PD ora chiede di contare di più. Per quanto indiscutibile e clamoroso, scrive Antonio Polito oggi sul Corriere della Sera, il successo delle liste di Grillo non è il nocciolo della questione, il fatto è che si è aperto un enorme cratere al centro del sistema politico italiano e l'esplosione ha sollevato un'onda capace di trascinare milioni di elettori fino all'estrema periferia. Ed ecco la vignetta di Giannelli questa mattina: ad un tavolo di ristorante sono seduti i quattro segretari di partito, Bersani, Alfano, Casini, ma anche Fini, e poi c'è Bossi al loro fianco e un Grillo che chiede il conto. Questo per quanto riguarda il gelo tra Monti e i partiti. C'è anche un altro screzio decisamente forte: Napolitano, i consensi per Grillo, non vedo alcun boom, così il capo dello Stato ieri che si è scontrato verbalmente con l'ex comico. Ma a centro pagina il Corriere della Sera pone l'altra questione che è uscita ieri, vale a dire proprio le parole di Monti: i costi della crisi rifletta chi ha portato l'economia in questo stato. Queste sono state le parole ieri del Premier, che ha parlato anche del voto dicendo che non sposta l'agenda italiana. È stata una serata di vertici per il PD, di vertici per il PDL a Palazzo Grazioli. Oggi vedremo che ne verrà fuori. La Stampa, anche qui crisi, l'attacco di Monti, non mi riferisco ai suicidi, e poi invece il Messaggero rifletta chi l'ha provocata, l'affondo appunto di Monti. Verso i partiti. Il Sole 24 Ore che apre con un titolo un po' diverso rispetto agli altri quotidiani. La notizia anche qui c'è: Monti, drammi della crisi, rifletta chi l'ha provocata, le parole che stanno facendo discutere. Ma su Il Sole 24 Ore c'è anche l'osservatorio politico di Roberto Dalimonte, che fa anche lui i conti, ponendo dal quale ne emerge che il centrodestra da questa consultazione ha perso un 14%, la sinistra però ha perso anche lei un 5%. E ripeto, questi sono i numeri da cui oggi bisognerà ripartire. Sole 24 Ore, che però vi dicevo apre diversamente, guarda ancora all'Europa, l'Italia all'Unione Europea, investimenti fuori dal patto. Che succede? Che una reazione c'è già stata dopo il voto italiano, ma soprattutto francese in Europa. Il vertice europeo del 23 maggio punterà sulla crescita. La proposta europea è proprio questa, che gli investimenti siano fuori dai conteggi dell'Europa per il patto. Squinzi le parole anche del del neo presidente di Confindustria sul Sole 24 Ore, che dice: la priorità va dalle infrastrutture, l'imperativo della crescita, l'Europa batta un colpo. Così Adriana Cerretelli, il commento oggi sul Sole 24 Ore: basta Europa dei prepotenti, dei padroni che riconoscono solo la legge del più forte, basta con l'Unione degenerata in una piramide feudale, basta con l'Europa inconcludente dei proclami, scandalosa quando la crisi economica morde, l'austerità fa il resto e il lavoro si trova sempre meno. Una durissima Adriana Cerretelli oggi su Il Sole 24 Ore. Vi dicevo, svolta arrivata soprattutto dalle elezioni francesi ed è al passaggio di consegne tra Sarkozy e Hollande che sono dedicate la maggior parte delle fotonotizie che trovate oggi sulle prime pagine. Così la Repubblica, Sarko Hollande, lezioni di stile, abbracci e sorrisi dopo gli insulti, il passaggio di poteri alla francese dopo i durissimi scontri, comunque fair play nel passaggio di consegne, effetto Francia, anticipato il vertice sulla crescita, scrive La Stampa, simbolica staffetta dell'armistizio per il Messaggero. Fotonotizia diversa invece per il Corriere della Sera, che dedica l'immagine di questa mattina sulla prima pagina a quelle 59 donne uccise da uomini. La strage infinita, donne dai volti senza spessore che sorridono dalle foto di vecchi documenti, visi bellissimi, tristi, imbronciati o felici, finiti su qualche social network. Lo scorso anno le donne uccise sono state 137, quest'anno finora sono 59, le storie di 38 di loro oggi sul Corriere della Sera. Tema questo di cui si dibatte da qualche settimana e sul quale interviene sul Repubblica in una lettera un nome in qualche modo eccellente, perché Clio Napolitano, la moglie del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, a scrivere oggi alla Repubblica e basta il titolo: perché dobbiamo fermare l'odio che uccide le donne? Caro direttore, i fatti di cronaca di queste settimane hanno riportato al centro dell'attenzione il tema della violenza delle donne. Così l'incipit della lettera di Clio Napolitano pubblicata oggi dalla Repubblica. La Repubblica che riporta anche un'altra notizia: la Vitola, dossier su Fini per conquistare Berlusconi. Così il racconto di Walter La Vitola, ricorderete, sul famoso dossier di Gianfranco Fini sulla Casa Monte Carlo. E poi Formigoni che cambia versione: mai restituito soldi ad Accò, non serviva il conguaglio. Altre segnalazioni dai giornali di oggi invece dalla Stampa: ucciso 34 anni fa dalla mafia Peppino Impastato, oggi per lui niente messa. Cinisi nel giorno della memoria, oggi è il giorno della memoria delle vittime del terrorismo, il 9 maggio, del terrorismo e della mafia. La Chiesa, un sì solo a una veglia, il parroco: i tempi non sono maturi. Dopo 34 anni non sono maturi i tempi per una messa per Peppino Impastato, ucciso dalla mafia a Cinisi. La storia la trovate oggi sulla Repubblica. Sulla stampa dalla quale leggiamo anche le novità nell'inchiesta sull'amministratore delegato dell'Ansaldo gabizzato a Genova. Nel comando di Genova forse c'era una donna, dietro all'agguato potrebbe esserci una donna notata da un vicino vicino alla sua abitazione. I PM aggiungono l'aggravante del terrorismo e ci sarebbe appunto anche un super testimone. Queste le notizie delle ultime ore. Altra storia da segnalarvi questa mattina dal Corriere della Sera, fondo pagina: sdobbato in Italia, insegnerà a Cambridge. La storia di un medico milanese che avrà il posto di un Nobel, Massimo Zeviani, 56 anni, in Italia non è riuscito a vincere un concorso universitario e così i successi nella ricerca scientifica adesso lo portano al Medical Research Center di Cambridge a prendere il posto di un Nobel, oggi 71enne. L'università italiana invece non l'aveva voluto. La Gazzetta dello Sport: stramanovre, Inter futuro, prime mosse di mercato in attesa di conoscere quale sarà il destino in Europa. Dopo la conferma di Stramaccioni, Moratti ha avviato il nuovo progetto che prevede tre colpi, Lavezzi vicino e si pensa a destro, a centrocampo, De Jong, e intrigo per Lucas, così scrive oggi la Gazzetta dello Sport, che parla anche del dopo scudetto. Agnelli ci prende gusto, questa Juve è destinata a vincere ancora a lungo. Una battuta dal rompipallone di Genegnocchi, raggiunto un compromesso fra la Juventus e la Federcalcio, la Juventus non avrà la terza stella ma due stelle e tre forchette. Così la carrellata ampia davvero questa mattina. Abbiamo avuto tempo per dai giornali di oggi, però alle 7:20, come sempre, maggiori dettagli da Alessandro Milan. Nel frattempo parliamo anche d'altro. Perché vi anticipavo che il 9 maggio è la giornata in ricordo delle vittime italiane del terrorismo e della mafia. Si ricordano le vittime degli anni di piombo, così come quelle uccise dalla mafia. Tra l'altro quest'anno è un anno un po' particolare, perché siamo a 20 anni della morte di Falcone e Borsellino. Ebbene, in mostra alla Triennale di Milano ci sono in questi giorni 200 lezzuoli dipinti da studenti per un futuro senza mafia, questo è il titolo della manifestazione. Allora Francesco Riccardi li ha visti, ne ha parlato con Maria Falcone, con una delle studentesse, con Claudio De Albertis, presidente della Triennale. Signora Falcone, qual è il senso di questa mostra? Il senso è il premio al lavoro dei ragazzi. Spesso il lavoro che gli insegnanti e i ragazzi fanno nelle scuole non viene riconosciuto, non viene soprattutto non viene visto. I giovani hanno subito accettato con grande entusiasmo, perché significava per loro l'occasione di poter dimostrare che le loro idee che ci hanno dipinti appunto in tutti questi lenzuoli sul tema il mondo che vorrei, cioè ci hanno dato quello che vogliono anche da noi adulti. Cosa vorrebbe che i giovani ricordassero di suo fratello, Giovanni Falcone? I giovani dovrebbero memorizzare il grande amore per la patria di Giovanni, il suo senso dello Stato, il valore della democrazia e della libertà, perché se non devono ricordarlo come il giudice antimafia, sicuramente lo è stato, ma è perché quello era il suo lavoro, ma alla base c'erano questi valori. Chiara, cosa ti ha coinvolto in questo progetto? La manifestazione che si svolgeva a Palermo, anche con i bambini palermitani che così ci hanno accolto, è stata una cosa molto toccante, molto, molto forte, ed è bello come sia stato trasmesso così gli ideali di Falcone e Borsellino alle nuove generazioni, soprattutto ai bambini che così crescono conoscendo questi ideali e anche loro combattendo contro la mafia. Presidente De Albertis, perché ospitare questa mostra proprio alla Triennale? La storia della Triennale è una storia di un'istituzione culturale con uno sguardo sempre in avanti e uno sguardo fatto anche di speranze. E devo dire che queste lenzuole colorate dei ragazzi sono proprio l'espressione massima della speranza di un mondo migliore. Così le nostre interviste, del tema parleremo ancora più avanti a prima edizione. Già vi anticipo che parleremo ancora anche di scuola, perché oggi comincia il round dei cosiddetti test invalsi per testare la preparazione degli studenti italiani. Sono coinvolte migliaia di famiglie e di classi, allora ne parleremo con il commissario per gli invalsi. Ora però una piccola pausa e poi riepiloghiamo le notizie di oggi. Prima edizione. Le inchieste di Radio 24. Italia in controluce. È 9 maggio, buongiorno a tutti, ben svegliati, Italia in controluce, in studio Daniele Biacchessi. Oggi è 9 maggio, il giorno della memoria delle stragi del terrorismo. Lucio Bondì ha intervistato il presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime, Antonio Iosa. Una data particolarmente importante, visto le recrudescenze di violenza che si stanno avendo proprio in questi giorni. Pensiamo al caso di Genova. Sì, certamente è importante che il Presidente della Repubblica, con quella legge istitutiva del 9 maggio come giorno per ricordare tutte le vittime di terrorismo e di stragi di tale matrice, quindi ricorra proprio il giorno dell'uccisione dell'onorevole Aldo Moro. E quindi questo anniversario fa sì che a livello romano si ripete questa cerimonia, dove tutte le vittime di terrorismo e di stragi sono invitate per fare una riflessione generale su quelli che sono stati gli anni di piombo o la strategia della tensione degli opposti estremismi che vanno dal 1969 con la strage di Piazza Fontana sino alla sconfitta delle Brigate Rosse nel 1982. Perché lei fa parte dell'associazione Aviter? Qual è stata la sua esperienza personale? Io sono una vittima delle Brigate Rosse, in quanto il 1 aprile del 1980 la colonna Walter Alasia di Milano, per vendicare l'uccisione dei quattro terroristi a Genova in via Fracchia, quindi dove c'era anche Riccardo Dura, che era il capocolonna che aveva ucciso Torossa, quindi hanno pensato di fare un'azione di rappresaglia a Milano. E quindi sono venuto a conoscenza che c'era una riunione in una sezione periferica della Democrazia Cristiana in via Mottarone a Milano, e quindi sono venuto con l'intenzione di uccidere quattro democristiani. Quindi sono penetrati appunto nella sezione imbavagliati e incappucciati. All'epoca la capocolonna era la Pasqua Aurora Betti, che guidava il comando. L'occasione appunto ci ha fatto una specie di processo proletario, ci hanno accusato che per colpa nostra erano stati uccisi i loro compagni a Genova, e quindi questa azione di rappresaglia alla fine si concluse con una gambizzazione di quattro democristiani, anche se eravamo stati condannati ad essere uccisi, che loro non ci uccisero perché assistevano a questa nostra esecuzione una quarantina di soci che partecipavano al dibattito. Avranno avuto paura delle reazioni dei soci e per fortuna hanno mirato alle gambe e non alla testa, perché loro volevano che noi ci inginocchiavamo, perché inginocchiati era più facile spararci alla tempia. Era Italia in controluce, l'intervista più ampia ad Antonio Iosa, la potete ascoltare alle 13.30 su Radio 24. Grazie, grazie Daniele Biacchessi. Seconda parte di Prima Edizione, ancora buona giornata da Anna Migliorati. L'inno europeo che ci aiuta ad aprire questa seconda parte di Prima Edizione, perché oggi è il 9 maggio, ma non è solo, come ci ha ricordato poco fa Daniele Biacchessi, la giornata in ricordo delle vittime del terrorismo e della mafia in Italia, ma è anche la festa dell'Europa. Il 9 maggio, perché il 9 maggio 1950 Robert Schuman presentava la proposta di creare un'Europa organizzata tra stati, proposta nota appunto come Dichiarazione Schuman, è considerata l'atto di nascita dell'Unione Europea. È un simbolo questa giornata e questa dichiarazione per questa Europa tormentata dalla crisi. E allora oggi noi vogliamo proporvi proprio la prima parte della dichiarazione che fece allora Robert Schuman. La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano. Il contributo che un'Europa organizzata e vitale può apportare alla civiltà è indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche. L'Europa non è stata fatta e abbiamo avuto la guerra. L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme. Essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino innanzitutto una solidarietà di fatto. L'Unione delle Nazioni esige l'eliminazione del contrasto secolare tra la Francia e la Germania. L'azione intrapresa deve concernere in prima linea la Francia e la Germania. A tal fine, il governo francese propone di concentrare immediatamente l'azione su un punto limitato ma decisivo. Il governo francese propone di mettere l'insieme della produzione franco-tedesca di carbone e di acciaio sotto una comune alta autorità nel quadro di un'organizzazione alla quale possono aderire gli altri paesi europei. La fusione delle produzioni di carbone e di acciaio assicurerà subito la costituzione di basi comuni per lo sviluppo economico. Prima tappa della Federazione Europea, che cambierà il destino di queste regioni. Cambierà il destino di queste regioni, così 62 anni fa. E certo, 62 anni dopo fanno un certo effetto queste parole nell'Europa di oggi. È per questo che abbiamo voluto farvele riascoltare, e allora parliamo proprio ora dell'Europa di oggi. E come non andare in quello che in qualche modo è un po' il cuore, volente o nolente, di questa Europa della crisi? Allora torniamo ancora ad Atene, dove c'è il nostro Dario Ricci. Dario Ricci, buongiorno. Buongiorno Anna, buongiorno da Atene. E allora cominciamo subito dalle notizie calde di cronaca, perché non ce l'ha fatta il primo partito a formare il governo ad Atene dopo le elezioni, sta tentando ora l'estrema sinistra. Le ultime notizie tra ieri sera e stamattina quali sono? Le notizie è che questo tentativo è ancora vivo, Anna, e questo è piuttosto sorprendente, visto che invece il leader di Nuova Democrazia, dei moderati di destra, Samaras, ha fatto un tentativo che era durato lo spazio di poche ore. Alexis Tsipras, invece il leader giovanissimo di Syriza, è ancora in campo, e l'ipotesi a questo punto, che ieri c'è stata anticipata da indiscrezioni qualificate, è che possa ora formarsi un esecutivo guidato da Syriza è costituito anche dalle forze della sinistra democratica e da quelli che sono di fatto i fuoriusciti della destra moderata di Nuova Democrazia, cioè il partito dei greci indipendenti di Pannos Kamenos. A sancire la maggioranza sarebbe l'appoggio esterno poi dei socialisti del PASOK. Si arriverebbe così quindi a una maggioranza di circa 100-180 seggi, che garantirebbe la tenuta di un esecutivo che avrebbe nel no al memorandum firmato col Fondo Monetario Internazionale, nel sì alla rinegoziazione del debito e nel sì alla permanenza dell'euro, i punti convergenti di una coalizione così composita. Quindi questo è il tentativo ancora vivo, su cui si sta lavorando in queste ore. Sapremo entro tarda mattinata, probabilmente primo pomeriggio, se Tsipras effettivamente ce la farà, altrimenti probabile che dopo un terzo tentativo del PASOK, dei socialisti del PASOK, si torni alle urne magari il 18 giugno. Allora, queste le ultimissime notizie in diretta con Dario Ricci. Dario Ricci, però tu ci hai portato anche alcune testimonianze di quella che è la crisi greca e che davvero sta facendo riflettere l'Europa. Questa mattina vi facciamo sentire il professor Alberto Benvenuti, archeologo della Scuola Archeologica Italiana di Atene, perché la crisi economica ha conseguenze anche su una fetta importante dell'economia greca, che è l'immenso patrimonio artistico. Non voglio soffermarmi su Pompei perché ormai è di dominio pubblico, però anche in Grecia e la situazione proprio, io direi che è esattamente identica a quella italiana. Basta pensare che in questo momento in Grecia, alla fine del 2011, sono stati prepensionati o comunque mandati a casa di forza tutte gli archeologi con la maggiore anzianità di servizio, lasciando scoperto appunto il servizio pubblico. Poi mancano i fondi, tantissime cose che dal taglio delle erbe secche d'estate per evitare danni a monumenti a causa delle radici o anche per eventuali incendi, la benzina per potersi spostare per ispezionare una costruzione abusiva, tutto questo ormai non esiste più e noi sappiamo che l'antichità messa in luce, se non viene protetta, e anche quando viene protetta, si distrugge. Da questo punto di vista, quali possono essere dei palliativi, delle soluzioni a breve termine? A breve termine non ne vedo, onestamente, perché mancanza di personale ausiliare scientifico, mancanza di fondi. Cioè, se riusciranno mai ad avere, e speriamolo ben presto, dei fondi, forse qualcosa riusciranno a fare. Grazie Dario Ricci da Atene. C'è anche questo nella crisi. E l'arte però, che si intreccia sempre più con la crisi, c'è una notizia appena battuta dalle agenzie che davvero lascia fa riflettere su quelle che però sono le disparità e le differenze anche all'interno di questa crisi. C'è stata un'altra asta record a Christie's, ce n'è stata una la settimana scorsa, nella notte ce n'è stata un'altra, una tela di un pittore espressionista astratto statunitense, Mark Rothko, è stato venduto all'asta per 86,9 milioni di dollari, 66,9 milioni di euro. È un nuovo record per un'opera d'arte contemporanea, per quest'arte dai privati evidentemente invece i soldi ci sono. 6:46 minuti, sentiamo come va sulle strade e poi parleremo di scuola, di un appuntamento oggi per molti studenti italiani. Prima edizione. È vero che i ragazzi italiani, come ha detto il ministro Fornero, sanno poco di italiano e matematica. Qual è la salute della nostra scuola? Allora, oggi per molti inizia la stagione già degli esami. Cominciamo infatti con oggi le cosiddette prove Invalsi. Oggi tocca alle classi seconde e quinte elementari con la prova di italiano. Domani la prima media, poi la matematica alle elementari. Il 16 maggio la seconda superiore. Il 18 giugno la prova inserita all'interno dell'esame della seconda media. Insomma, fatto sta che il dato ormai è assodato, ma la domanda è: a cosa è servita in questi anni la prova Invalsi? Io saluto in diretta con noi il commissario straordinario dell'Invalsi, Paolo Sestito. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Allora, magari un po' di paura tra gli studenti italiani c'è, qualche ansia tra le famiglie. Raccontiamo un po' cosa sono servite negli anni scorsi, cosa hanno dimostrato le prove Invalsi. Guardi, le prove Invalsi hanno una funzione non tanto di valutare il singolo studente, quindi non c'è motivo, direi, di avere paura da parte di nessuno, degli studenti e delle famiglie coinvolte. E questo è un punto chiarito. Va valutata la scuola, è così? Si valuta il sistema scolastico, si fornisce alla scuola un metro per confrontarsi con quello che avviene nel resto del sistema, e lo si fa con un approccio, con una prova che non solo è standardizzata, ma enfatizza, rispetto a molte prove più tradizionalmente condotte nelle scuole italiane, il concetto di competenze, non solo quello di conoscenze. È vero che i ragazzi non sanno più la matematica e l'italiano? Guardi, l'Italia nelle prove similari condotte in vari paesi, nelle prove OCSE PISA, nelle prove PIRLS e TIMSS, ha dei risultati complessivamente non particolarmente soddisfacenti, in particolare nei gradi scolastici superiori, mentre invece vanno meglio i gradi scolastici inferiori. Siamo più bravi alle elementari e meno bravi alle superiori? Elementari, esattamente, c'è un po' una perdita man mano che nel sistema si procede. Ma questi test vi aiutano a migliorare interne, il sistema scolastico? Questi test servono a migliorare, aiutano il sistema a migliorare. Ovviamente non è il test di per sé che migliora o non migliora la scuola, il test c'è degli strumenti di conoscenza, ripeto, sul sistema. E questo è quello che poi noi come istituto soprattutto andiamo a cercare di analizzare. Lo faremo presentando su queste prove un rapporto nella seconda metà di luglio, un rapporto nazionale sui risultati delle prove condotte ora, e dovrebbero aiutare a migliorare anche la scuola. Il fatto che siano condotte in tutte le scuole serve proprio a questo, a fornire a ogni singola scuola un confronto, un metro di paragone, un punto su cui riflettere. Noi cercheremo anche di rafforzare questa capacità, questa possibilità delle scuole di riflettere autonomamente sui propri risultati. È una pratica ormai digerita per la scuola italiana, quella dei test? Credo che sia una pratica ormai digerita. Ovviamente il contenuto stesso dei test può e deve migliorare, ovviamente la comunicazione sui test può e deve migliorare, deve soprattutto, secondo me, rafforzarsi l'utilizzo dei test, che non sono certo la panacea, non sono certo l'unico strumento, ma forniscono, ripeto, alle scuole due importanti paletti: la possibilità di confrontarsi e la possibilità di ragionare non solo sulle conoscenze, ma anche sulle competenze dei propri alunni. Uno strumento anche per i singoli insegnanti? Potenzialmente anche il singolo insegnante può guardare, il singolo insegnante, ma io direi anche più complessivamente il collegio dei docenti di una classe, per le classi coinvolte possono ragionare sui propri risultati, e quindi perché no anche per i singoli insegnanti uno strumento per ragionare. I risultati delle prove l'Invalsi li restituisce alle scuole. E quindi ogni scuola avrà poi questi documenti in mano per poter capire dove è andata bene, dove è andata male. Dove è andata bene, dove è andata male, quali sono le carenze. Tenga conto che le prove non sono solamente un risultato sintetico complessivo, le prove analizzano diversi ambiti tematici, cercano di seguire diversi processi cognitivi e quindi possono fornire delle indicazioni a chi lavora nella scuola su quali sono i punti di forza, i punti di debolezza, e dove migliorare. Grazie al commissario straordinario dell'Invalsi Paolo Sestito per essere stato con noi a prima edizione. Buona giornata a lei e radioascoltatori. Buon lavoro ovviamente oggi nelle classi italiane. Noi ci fermiamo qui, ma ci risentiamo tra pochissimo con le notizie di oggi con GR24. Grazie a Peter Bescapè, grazie a Diego Rovelli e ancora buona giornata da Anna Migliorati.